Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci all'appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, fine di aprile, ma guardiamo la data di domani, 1° maggio, che porta con sé una novità positiva, un tema di cui avevamo già parlato ma che con piacere riprendiamo insieme al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema sono le bollette, giusto? Bollette e tagli, i tagli dei servizi, luce e gas, se uno è moroso non paga. Ne avevamo parlato qualche tempo fa con una vicenda che si stava trascinando, che era stata sollevata, ne ha parlato anche Striscia la Notizia. Da domani cosa succede? Sì, innanzitutto Mirko, volevo dirti che oggi proprio con entusiasmo annunciamo che proclamiamo proprio la vittoria di una battaglia che l'Adico ha portato avanti diversi mesi proprio per un fenomeno, come hai detto tu, che riguarda l'energia elettrica e gas, di cui le persone si trovavano depotenziate o distaccate senza motivo e venivano a scoprire poi successivamente che magari anche perché non avevano pagato una bolletta e conseguentemente a questo anche i costi che dovevano sostenere poi per rientrare. Cosa accade? Che in virtù di questo atteggiamento poco trasparente che le compagnie avevano nei confronti dei consumatori, che quindi procedevano a distacco senza comunicazione scritta o senza una regolamentazione di una precisa tempistica, e l'Adico ha fatto denuncia all'autorità, ha portato avanti questa battaglia e finalmente dal 1° maggio cambiano le normative che regolamentano proprio i rapporti tra il consumatore e l'ente fornitore di energia elettrica e di gas alla scadenza delle bollette, quando queste per un motivo o per un altro non vengono pagate. Prima succedeva che appunto non si pagava la bolletta alla scadenza e il gestore procedeva molto velocemente appunto a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas. Cosa cambia da domani? Non è che le bollette si possono non pagare, ovviamente bisogna pagarle, ma c'è una maggiore tolleranza. Certamente, mentre ieri, fino a ieri chi non le pagava, sì, perché possiamo capire anche dei casi incredibili dove c'erano variazioni di domiciliazione o di residenza, oppure c'erano anche problemi sulla comunicazione o sui rapporti tra le poste e l'ente che mandavano le bollette, oppure anche perché comunque magari per carità c'è stato anche qualche furbetto, non dico di no. Alla fine della fiera, se prima non c'era un rapporto che veniva previsto, regolamentato in termini precisi di cui faceva fede l'invio della raccomandata, oggi cosa succede? Che l'autorità ha stabilito che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà quindi chiedere la sospensione della fornitura senza prima aver mandato al consumatore una messa in mora in cui sia ben evidente la data di emissione, che deve essere spedita entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nella lettera, e da questa data il cliente avrà 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione e ne dovranno passare altri 3 da questa scadenza prima che il venditore di luce o gas possa chiedere la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento. E quindi c'è un po' di tolleranza in più, anche perché spesso succede, ovviamente non succede a chi ha il RID in banca, perché lì il pagamento parte automaticamente, succede magari appunto a chi riceve la bolletta e paga in contanti o tramite il bollettino di conto corrente postale. Sì, però c'è anche un'importantissima novità, sempre contenuta nel pacchetto che ha appena approvato l'autorità, che quindi andrà a regime da domani, che ha tenuto conto su quelle che sono state le nostre proposte formulate proprio da Adico, che sono cosa? Che innanzitutto il venditore non potrà sospendere l'erogazione di energia elettrica o di gas qualora non ci sia stato un reclamo da parte del cliente, e quindi senza un riscontro scritto da parte del venditore. Praticamente in soldoni cosa succede? Io non ho pagato la bolletta o mi arriva un conguaglio incredibile rispetto a quelli che sono le normali bollette che ho sempre pagato. Se prima in occasione di un contenzioso il venditore procedeva a distaccarmi dal contattore perché comunque risultava non pagata, oggi a fronte di quello che è un'attività un reclamo che una persona, un cliente ha mandato al fornitore, il fornitore ha l'obbligo prima di staccarti risponderti per iscritto, e se hai ragione, oltre a prevedere quelli che sono gli indennizzi che vengono regolamentati da domani, e deve anche fare in modo che l'allacciamento, o in questo caso il riallacciamento, sia gratuito rispetto a prima, che invece era di 70 euro. Ecco, questa è una vicenda che è partita proprio dal Veneto, giusto? Sì, è una vicenda che è partita proprio da noi, una nostra socia che si era trovata un giorno una bolletta da più di 1000 euro da pagare da un giorno all'altro, e questa aveva contestato l'importo. Anche noi come ufficio avevamo fatto i conteggi e verificato che questo importo non era dovuto, e malgrado c'era un'attività, un contenzioso tra i nostri uffici e il fornitore in corso, il fornitore, in barba a quella che era l'attività in corso, ha proceduto a distaccare il fornitore e il cliente, e quindi causargli tutti quei disagi e quei danni, che poi in questo caso era anche un'attività commerciale, e in conseguenza al fatto che poi loro doveva essere pagata. Allora oggi questa cosa qua non potrà più accadere, perché di fronte a quella che è un reclamo scritto fatto da un cliente, il venditore, come abbiamo detto prima di distaccare, ha l'obbligo di rispondere a quelle che sono le ragioni che vengono avanzate. E poi ci sono stati previsti anche degli indennizzi che variano da 20 a 30 euro al giorno, a seconda che accadano questi comportamenti lesivi nei confronti del cliente, di cui dopo alla fine il cliente gli viene data ragione. Bene, allora ogni tanto buone notizie per noi consumatori, per quelli che magari si trovano con questi casi di bollette pagate con qualche giorno di ritardo, oppure di contestazioni che vanno documentate e scritte. Una vittoria importante di cui ringraziamo l'Adico, e che appunto entra in vigore da domani. Grazie a Carlo Garofolini, ci ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie a te, amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.